5C. Ascolta e rispondi. Quando mi scriverà? Domani le scriverò. Quando mi telefonerà? Domani le telefonerò. Quando mi risponderà? Domani le risponderò. Quando mi obbedirà? Domani le obbedirò. Che cosa mi manderà? Oggi stesso le manderò un'email. Che cosa mi porterà? Oggi stesso le porterò la fattura. Che cosa mi racconterà? Oggi stesso le racconterò ciò che ho visto. Che cosa mi risponderà? Oggi stesso le risponderò di sì.